Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Conoscere la rete viaria italiana e le condizioni della pavimentazione stradale è un modo per programmare e gestire al meglio manutenzione e sicurezza. Per facilitare questo compito è nato Cartesio, un mezzo mobile dell'ANAS che rileva le caratteristiche di strade e asfalto muovendosi ad una velocità che arriva anche a 90 km orari. Grazie a tecnologie moderne come GPS e sensori laser scanner, Cartesio monitora e filma la strada, identifica rilievi e difetti sul tracciato, evidenzia la segnaletica. Insomma, fotografa lo stato del percorso che compie con una precisione e con standard tecnici piuttosto elevati. Dopo una sperimentazione in Sicilia fra Catania, Siracusa e Palermo, Cartesio è arrivato qualche settimana fa a Verona, dove è stato presentato da ANAS nel corso della manifestazione Transpotec. Ma qual è la situazione della rete viaria italiana e quali sono gli investimenti previsti per i prossimi anni? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E oggi ci occuperemo, come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, di infrastrutture e di nuove tecnologie. Nuove tecnologie applicate al monitoraggio di queste infrastrutture, come ad esempio la macchina denominata Cartesio, di cui parleremo tra poco, ma anche nuove tecnologie applicate alle infrastrutture per ottenere le cosiddette smart roads, cioè quelle strade del futuro in cui appunto l'infrastruttura stradale dialogherà con il veicolo. E ne abbiamo già un primo esempio con quella che una volta si chiamava la Salerno-Reggio Calabria e oggi è diventata l'autostrada del Mediterraneo. Di tutte queste novità parleremo oggi in compagnia del nostro ospite, che è l'ingegnere Roberto Mastrangelo, responsabile gestione rete di ANAS. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora, cominciamo innanzitutto da questa macchina meravigliosa che è in grado, con una velocità anche abbastanza elevata, 90 km orari, di rilevare e monitorare lo stato d'usura delle nostre strade. La vedremo spesso sulle strade italiane, è già cominciata la sperimentazione. Come lavorerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Sì, il Cartesio è un'attrezzatura che è nella disponibilità di ANAS e che ci aiuta nelle operazioni di rilievo dell'infrastruttura stradale. La conoscenza della consistenza, innanzitutto, della rete stradale di competenza. ANAS è gestore di circa 25.000 km di strade e di autostrade in gestione diretta, è fondamentale. Infrastruttura significa anche tutto ciò che è sulla strada, quindi a partire dalle opere d'arte alla segnaletica, quindi anche alla cartellonistica, anche pubblicitaria, gli accessi. Quindi è fondamentale conoscere la consistenza della rete. ANAS, tramite il centro sperimentale di Cesano, ha inoltre un'altra serie di attrezzature che ci servono per conoscere a livello qualitativo lo stato della strada, e quindi abbiamo attrezzature che ci danno informazioni sullo stato della portanza della pavimentazione, sullo stato dell'aderenza della pavimentazione stessa, ma anche sulla qualità della segnaletica orizzontale o sul livello di illuminazione all'interno delle gallerie. Tutti questi elementi servono per farci conoscere appunto lo stato della rete e quindi per farci pianificare quegli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che servono per mantenere un livello di sicurezza certo accettabile per le nostre strade. Ecco, in attesa di avere i risultati di Cartesio, però ci dica un po' qual è la situazione della nostra infrastruttura. Ovviamente mi riferisco a quella gestita direttamente da ANAS. Ma diciamo che soprattutto negli ultimi 2 anni abbiamo avuto un importante cambio di strategia da parte del governo e quindi anche da parte di ANAS, che ovviamente ha accolto molto favorevolmente l'obiettivo di porre al centro dei nostri interventi quello della manutenzione straordinaria della rete. Quindi abbiamo sicuramente concentrato l'attività in interventi manutentori. Ad esempio abbiamo fatto partire nel 2016 la campagna Basta Buche. Pensiamo che con 3 distinte tranche di progetto abbiamo appaltato circa 900 milioni soltanto di pavimentazione, e altrettanti verranno appaltati nel corso di quest'anno, unitamente circa un altro 1,5 miliardi complessivo di interventi di manutenzione sulla rete, perché la strategia giusta e fondamentale è quella di mantenere e di migliorare l'efficienza e la sicurezza della rete stradale, che non dimentichiamo, la nostra è una rete stradale molto complessa, è una rete stradale anche particolare. Siamo il secondo paese al mondo come numero di gallerie, abbiamo solo come ANAS oltre 13.000 tra ponti e viadotti, ed è una rete in gran parte costruita anche in anni abbastanza lontani, quindi certo, necessita di manutenzione continua. A proposito di ponti e viadotti, tra un po' parleremo anche di un tema particolarmente caro al mondo dei trasporti, che è quello dei trasporti eccezionali. Questo proprio perché, come ben ricorderete, c'è stato un episodio purtroppo drammatico che ha visto il crollo di uno di questi ponti dopo il passaggio di un trasporto eccezionale. Però vorrei continuare a parlare di tecnologie, perché c'è un termine che ultimamente, quando si parla di infrastrutture, è molto utilizzato: smart roads. E quando è stata inaugurata qualche settimana fa, alla fine dello scorso anno, l'ex Salerno Reggio Calabria, si è utilizzato questo termine per definire la nuova autostrada del Mediterraneo. Perché? Ma Smart Road è un'infrastruttura, una strada che non è più una semplice opera civile, ma un'infrastruttura tecnologica che pone il focus sull'utente e sicuramente, oltre a garantire dei miglioramenti in termini gestionali ed in termini di manutenzione, serve per migliorare e innalzare sensibilmente la sicurezza della circolazione. Parliamo di una strada che ha un sistema di connettività che consente di ricevere e fornire informazioni all'utente in viaggio su quel tratto di strada, quindi informazioni mirate all'utente in quel momento sullo stato del traffico, sulle condizioni meteo, sui servizi presenti, ma anche di ricevere chiamate di emergenza o di soccorso, di consentire all'utente, senza appunto abbandonare il veicolo, di poter dialogare con una centrale operativa che ha la competenza su quel tratto di strada. Ovviamente usiamo una tecnologia che è la stessa tecnologia che in alcuni casi ci provoca e ci dà distrazione, ma la tecnologia che useremo sulla Smart Road sarà in questa fase una tecnologia puramente vocale. L'utente sarà raggiunto da queste informazioni in viva voce, non dovrà assolutamente distrarsi. E il passo successivo qual è? Quello di passare da una guida assistita ad una guida autonoma. A quel punto noi avremo un veicolo che dialogherà direttamente con la strada e non sarà più l'utente ad essere il soggetto dall'informazione, ma sarà direttamente il veicolo. Torniamo al tema di cui parlavamo prima, quello dei trasporti eccezionali. Sia il mondo produttivo sia quello associativo dell'autotrasporto lamentano grandi difficoltà subito dopo l'incidente che ha visto come protagonista purtroppo uno di questi veicoli, grande difficoltà ad ottenere oggi le autorizzazioni che vengono rilasciate in gran parte proprio da ANAS. Esistono queste difficoltà o state insomma lavorando per cercare di superare questo problema? Ma guardi, per quanto ci riguarda, noi abbiamo continuato a monitorare soprattutto i tempi di rilascio delle nostre autorizzazioni, che sono in linea con quelli che sono i target, e direi che anche il numero di autorizzazioni rilasciate è in leggero aumento. Quindi questo vuol dire che nel complesso il sistema funziona. Noi abbiamo un sistema informatizzato di gestione delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. È ovvio, è capitato e può esserci sicuramente qualche fatto contingente, qualche esigenza puntuale legata probabilmente anche a qualche trasporto che ha un'eccezionalità per massa o per dimensione che merita degli approfondimenti, e quindi in questo senso siamo aperti, ma lo facciamo continuamente, al dialogo con i vettori, con gli autotrasportatori, per individuare quelli che possono essere le modalità migliori o anche gli interventi anche di verifica che possono essere necessari per consentire quei transiti. Ovviamente la rete stradale italiana è una rete complessa e anche abbastanza frammentaria in termini di gestione, per cui abbiamo degli itinerari che sono nella competenza di più gestori, e questo complica notevolmente le cose anche per chi deve poi richiedere queste autorizzazioni. Ma in questo la nostra disponibilità al dialogo, a recepire delle istanze da parte degli autotrasportatori, ma anche una grande collaborazione con gli altri enti gestori della rete stradale limitrofa o contigua a quella ANAS, assolutamente c'è. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione